il tempo e tutto ciò che vuoi. Puoi sfidare anche la sorte e forte tu sarai. Proprio tu che sei più forte e che non temi mai. Non temevi mai la morte e ora temi lei, temi lei. Lei con mani affusolate e sguardo da innocente. Lei con corpo languido, bellezza dirompente. Prima che arrivasse per ridurti in questo stato, credevi d'essere libero e invece ti sei folgorato. Uccide chi vuole lei, la donna elettrica, è come in un videogame. Morta chi capita, quando parla con me fa la simpatica. Ma poi in realtà lei è felina e selvatica. Lei ormai ti ha preso tutto, ti ha preso la libertà.